Dammi. Dammi, mangi. Dammi. Dammi. Buonasera. Ciao, ciao. Stavo chiamando poco fa. Non so perché io ho fatto infermiere, che la mangio di lì, dove c'era solo mio marito, ma doveva fare roba. E quindi sono rimasto solo e soletto. Ehi, vabbè, mi stavi arrivando spettato per quello, perché non sono entrato lì. Ho capito. Che lì mi stavi arrivando spettato. Vabbè, quello sì, il mio non è che sia migliore, e mi fa male anche perché mi era caduto e dunque non c'è più la lettura del display, della frequenza, per cui si può immaginare. Diciamo che devo digitare e basta, cioè fare il numero, per essere sicuro fare il numero che mi interessa della frequenza, anche se non lo vedo, ma già va bene lo stesso, però è brutto così, è meglio vedere la frequenza. Come si chiama? Non lo so, ma non mi ricordo se è come. piramidi, che tra un po' ci sono le regionali a Bologna lì di votare Salvini. Ma lì a votare a via, no? Perché lì non è domiciliata lì. Un'azienda, no? Qui c'è una succursale già. sono tastoni, non è come qua, qua non ci sono vie di uscita buone, non ci sono alternative per potersi dar da fare, niente, qui ha fatto bene che sei andata lì. Fa più o meno c'era al modello, c'era a Bologna, è andato perché ha venduto una casa che aveva in paese, no? E l'ha venduta a un santo che lavora lì a Bologna stesso, e dunque è andato lì a trovarlo perché lui non poteva venire in quanto era impegnato nel lavoro, e allora è andato lì e aveva fatto tutto quello che doveva fare, compra vendita eccetera, insomma, ecco, e ha venduto la casa a questo giovane che lavora lì. Però siccome questo qui è di tre snurare e lui la casa ce l'aveva lì e ce l'ha venduta, capito? Non se ne faceva niente, dice troppo lontano la stanza, non me ne faccio niente, poi la casa ce l'ho qua e dunque quella ha preferito venderla. Una situazione molto ma molto meglio sicuramente, non ci sono dubbi, pure lì al nord già si sa che si lavora, non è come al sud ad esempio o come in Sardegna o lì, ha fatto bene a andare lì, così almeno si sistema. Io avevo un amico di Porto Antonio, a me quello che non voleva leggere, c'è un amico di Porto Antonio, cioè è di Sassari, però abita a Porto Antonio, e praticamente con la ragazza sono partiti in Emilia Romagna e entrano a lavorare in questa fabbrica dove fanno formaggi eccetera, facevano una gallina. Poi praticamente il principale gli ha proposto, oltre a fare la gallina, se dormivano di notte lì e facevano i costumi alla fabbrica, gli pagava luce, acqua, oltre lo stipendio che gli dava, le dava anche qualche cosa in più, si dimentica, e così ha fatto, ci guadagnavamo bene, sia io che mia moglie. E poi ci è venuta la nostalgia, ce ne siamo tornati a fare tutto, lui ci ha detto, non trovavo lavoro. Poi alla fine c'è stata la guerra industriale in questa fabbrica di tubi, ma le case un po' sulla mano, mi ha tracciato due vita, adesso siamo senza lavoro. Figurati. Lo sai che anche quell'acquirente di Antonello, che ha comprato la casa di Antonello, anche quello lavorava in una fabbrica di formaggi, sia lui che la moglie di questo tipo. No, questo è di Treslo Laghe, solo che se n'è andato perché ha il lavoro lì, però siccome era anche la famiglia di Treslo Laghe, e si è voluto comprare questa casa, dice un domani, quando andrò in pensione, magari rientro e ho una casa per trovare, capito? Beh, certo, e poi tanti sempre tornano quando poi vanno in pensione, tornano la loro. Thank you. casa qui, appunto, sta bene, cioè, lo so, io sono d'accordo con lui, ma solo perché è già in pensione, è tranquillo, ma se fosse perché, se fosse ancora giovane, cioè che doveva ancora lavorare, cosa faceva qua? E allora ha fatto bene, si vede che è già grandetto questo uomo. Per abitare lì che qua, questo non ci sono dubbi. Oh, a parte i tuppi che ci sono oggi, il circolatore, i cinghiali e la mondetta che c'è, però si sa, è Roma, è sempre Roma, no? Oh, io mi sento piccolo di chiudere la Roma, una volta che sta qua, che sta in Spagna, c'avevo una camicia, se la cosa è rimasta a tempo di tutti. Guarda, avevano chiesto i carabinieri, che hanno fatto rimettere subito la camicia. Ci sono quelli che si fanno il bagno nella sola fontana del Trevi, si può immaginare, e non solo lì, ne fanno poco di casino, di cose. Ci sono quelli che si raccolgono le monete anche, quelli che buttano per offerta, ma comunque, ci sono tutti vengono qua in Italia, fanno quello che vogliono e nessuno le dice niente. Mentre invece quando si va all'estero devi seguire la loro religione e la loro cultura, perché se no tu sei subito fuori. Invece qua ognuno fa quello che vuole. Troppa libertà c'è qua. E per non parlare di quelli che stanno con le componenti movimenti, e poi tutti colui, ma questa ragazza, che è una ragazza su 35 al massimo 40 anni, era anche una ragazza carina, non era tutta belpate, solo che doveva essere esaurita, fino a non fare parte della mentre si fece rispetto agli spagni, ci ha aperto una camicia, fece l'offerta per farsi vedere tutto, capisci, se l'offerta la fa. E niente, pure io ho visto lo scippo a me. Allora praticamente questo qui ha attraversato la strada, ha scippato la cinese, ha lanciato la borsetta al complice che c'era sulla tappa per marciapiede, l'ha preso la borsetta, però i passanti l'hanno beccato. E lei ha detto no, chiamate di carabinieri, interessante che mi dà la borsetta. L'ha dato la borsetta e l'ha lasciata andare. E hanno fatto male perché dovevano denunciarlo e così almeno gli sarebbe passato un pochino la voglia di scippare la gente. E vabbè, comunque. E ma lì ne succede uno ogni due minuti in queste cose, non è. Quando mi sa quanto ne succede al giorno, è un po' la città di queste cose qua. Sia Roma, Napoli e tante altre, tutte queste città così. A Milano che Milano, ma queste cose, non è che, perché anche a Milano ci sono i barboni con i cati nella stazione, tutti pisciati, tutti quanti sporchi, ma carità. E intanto nel 500 siamo passati, c'era questo motorino attaccato al palo con la cantina. Dopo siamo ritornati e mancava il motorino, c'era solo la ruota attaccata con la cantina. Hanno girato. Sì, mi hanno smontato la ruota per una piazza lì, incredibile. Purtroppo. sicurezza. E Napoli non è peggio. Ne ammazzano uno al giorno, ne ammazzano così per strada. Napoli è una delle città più belle del mondo, se per quello, solo che è una delle più pericolose in fatto di camorristi eccetera, ma che sai, Giulia, se lo stai attento lì, non la valigia, no, se ho la borsa, le mutande se ne rubano quando stai passando in strada. Perché non lo sai, è così, purtroppo, forse ce n'è tanta, forse ce n'è tanta, ma diciamo che la maggior parte delle, ma più che altro al sud, diciamo che la forse in Italia più che altro al sud, cioè intesa come comuni che non sono molto affidabili, tipo Roma ad esempio, tutta questa mondetta per strada, ma quando vai? Che io posso capire, può capitare un periodo che magari ha qualche problema l'amministrazione comunale, ma stiamo parlando di anni, è sempre la sua esattoria, montagne di mondetta, ma quando vai? Non è possibile. Noi siamo andati a Ostia a trovare un amico, no? Due amici, dai, no? Praticamente eravamo conosciuti qua in Sardegna, siamo diventati amici, siamo tanti anni che ci andiamo insieme, ci troviamo, poi sono loro, andiamo lui. E ci ha fatto trovare degli amici, perché stavamo passeggiando a Ostia, a lungomare, che è bellissimo, tutto pieno di locali, tu a Ostia vedi, da una parte ci sono tutti i locali che puoi girarti e tutta roba così, dall'altra ci sono tutti i ristoranti e ballano sulla spiaggia con la lume di cose, ci mettono le torce eccetera eccetera, e stavamo passeggiando questa cosa, cioè passeggiando su quale siamo lunghi, e la borsetta alla lezione abbiamo detto tutti la borsetta l'ha fatta, e infatti erano dei costumi, hanno capito che loro avevano capito che erano lunghi, sono andati a quella, da quella che c'erano avanti la borsetta via non si sa che è così, ma già lo sappiamo, sono così, purtroppo la gente quando ha la borsetta, soprattutto con le persone anziane, vecchie praticamente, è anche pericoloso, perché di chi non ha borsetta la fanno cadere, capita, e più di una qualche volta ha sbattuto la testa e anche morta, solo per lo scippo, per dire, no? Bisogna stare molto attenti, purtroppo c'è la delinquenza, non è come qua, anche qua si sta svegliando adesso la delinquenza, però non è mai ai libri come fuori. La città è più grande, ma non so ce l'abbiamo fatto subito a Roma, l'ha raccontato per tutto, non è una città molto industrializzata, anzi, diciamo che è abbastanza misera come posti di lavoro, eccetera. Mentre invece al nord, in Nord Italia, lì il lavoro è più all'avanguardia, c'è molto di più, e indubbiamente è più prospero, dai. Lì c'è una mentalità un pochino contorta, ad esempio se va uno del sud per chiedere una casa in affitto o qualche posto di lavoro, tante volte dico no, dice no, non affittiamo, dice ai terruni. Cosa credono di essere loro, vuoi capire, quando sono peggio, ma molto peggio della gente del sud. La gente è affettata, non so. Come questo che mi ha scritto che adesso lo ristorante non dovrebbe entrare in bambini, che faceva entrare i cani per bambino, che sapevano comportare come i cani dei bambini che non prevano le scarpe e correvano a parte all'altro. È vero. È vero, sì, perché? È vero, proprio così. Ciao Lu. Buonasera, ragazzi. Sono qua, mi cameretta. Oggi diciamo c'è freddo. Ciao Lu. Lui dice che ha freddo, lui ha sempre freddo, faccio dare la coperta lì. No, la già accesso fa accesa. Gianni non ha capito, no? Ha fatto l'unione, io dico accesso fa accesa, boh. Capito, la tanto è lui. Non cade tanto. La stufa è sempre accesa, sempre in funzione. Sarebbe, com'è Luca, a pelle che la stufa che avete lì? Sì. Com'è, quella normale oppure quella con i radiatori? Normale. Infatti, ho capito. E anch'io ce l'ho a pelle, sono con i radiatori anche. Prima mi ricordo quella che c'era la Teresa, non si tutti a casa Luca, una volta sono andata anche adesso stavo un po' lento. Non lo sai che così. Certo, se la metti forte, tu pensa che arrivo, mi sembra, a 8 o una cosa del genere, come gradazione. Noi massimo la mettiamo a 3 e quando la accendi a un certo momento può stare a petto nudo qua. Cosa cambia? Soffia di più con sulla freccia, così soffia il soffio cambia con la sua. Più la accendi, più alta la metti e più consuma, è ovvio, no? Però scalda anche molto di più, ma non è il caso, non è il caso di metterla forte, anzi, diciamo che di solito la utilizziamo, accendiamo a 3 e poi la passiamo a 2. Consuma a 5, se la metti a 5 un sacco se lo succhia. Sì, se metti a 5 in un giorno un sacco se lo succhia, sì. Io lo credo. Certo, ma poi dipende anche dal tipo della stufa. Se la stufa è molto grande è chiaro che consuma anche di più, perché ha più potere calorifero. Dunque, scaldando di più, consuma di più, è ovvio. È così, vabbè, dai. 5 euro e 29, allora, a sacchetto sto pagando il pezzo. Qualcuno c'è, tu stai parlando già. Sì, comunque già la cosa è già stata, la casa è grande, non è piccola. Il pezzo già scalda. Certo che scalda, già lo credo. Solo che essendo normale si scalda la stanza lì. Sì, vabbè, già si sentano anche le altre stanze, la c'è il porta aperte e si sentano anche le altre stanze. Ma se qualcosa di attore in ogni posto, in ogni stanza è un'altra cosa. Beh, quello di attore è diverso. E qua ci sono i termosifoni, solo che sono in disuso da anni. Ho capito, se si possono riprendere, perché no? Perché l'impianto non è problema. Naturalmente bisogna vedere anche la situazione, com'è l'impianto, perché secondo com'è è chiaro che secondo dove hai messo la stufa, secondo dove hai fatto passare il tubo di scarico fumi, è chiaro che allora è un problema, perché bisogna riprendere l'impianto tutto da capo. E allora, Gianni ci è sceso dentro il telefono. Ciò ti ha fatto un gabinetto. Capita? Allora ti hanno la catena, ha schiacciato il pulsante e ci è preso anche lui. E allora? Gianni, meglio sei stato come maturo che non ci faccia tu me. È fallito. Adesso che ha l'antenna nuova da piazzare ancora, forse se la sta guardando adesso. E domani gliela piazziamo. Domani si piazza. Sì, è stato più. Meglio che avevo mezz'ora e travaggio, uno di più, mi hai tutto fatto. No, mezz'ora no, che bisogna girarti, non le uscito. Fai un'oretta, due ore, là, fatta bene, no, fai così in fretta. Ehi, i tiranti sono già piazzati, non è che ci vuole, basta mandarli per poi riprendere, non è che devi fare tutto a capo. Se i tiranti ci sono già, è perché vuol dire basta solamente staccarli dal muro dove sono agganciati e poi riattaccarli, per passare il tubo e mettere il coso. Anzi, se hai il tubo canocchiale non c'è bisogno nemmeno di coso, perché non si può piazzare per terra e poi si tira su il tubo insieme all'antenna. Metti le gambe e subito i tiranti. Intanto nel tubo nuovo ci mette la ralla, ci sarà la ralla, avrà comprato la ralla, quell'altri fili, attacchi ai fili, tutto in terra trovate. E poi la fili su, che poi tra l'altro è anche leggera, e stringi il bullone delle gambe e l'antenna è già a posto. Il Zabuzene che è semplicissimo già, semplicissimo, non è come la Mantova, quella è semplicissima, anzi ti dirò di più, te la puoi anche preparare in casa, poi quando sali su allunghi i tubi, c'è per quello, e il filo è già infilato dentro, pronto. Ah, i tubi non sono in casa. Bastano in casa, bastano longe, si possono mettere uno dopo l'altro, prendi e infili il tubo, il filo dentro il primo tubo, poi prendi l'altro elemento, infili l'altro elemento e lo colleghi, e poi l'altro ancora, sono quattro elementi, se ti stai dicendo che lo puoi preparare anche a casa, però poi, volendo, puoi anche chiudere tutti i tubi, come la canna da pesca, no? E il filo rimane dentro, poi ti allontano, lo allunghi ed è già pronto, già piazzata. Ah, perché come la zona siamo chiari o facciamo che si possa in casa come la canna da pesca di quelle che ci monta la e a canno chiave sono, allora cosa ti devi fare? A canno chiave sono, infine si va a allunghi i tubi pure. Una cosa è telescopica, una cosa è in cambio, cos'è, telescopica o in cambio? La telescopica. Ho visto che ci sono diversi elementi, pensiamo che non venga a fare una bollata in parte. È uguale già, è uguale, guarda. No, non è un problema, ti sto dicendo. Facilissimo da fare, da piazzare. Vabbè, comunque se la vuoi fare, sono per fatela su. Però volendo la puoi preparare anche a casa, non è un problema. E lo sai cosa è? Succede anche agli applicati, anche il bullone a casa. Vabbè, se succede il terrazzo, c'è spazio, magari ti viene anche meglio, questo sì, è vero. Questo è un senz'altro, fa per dire. Per cui io la verità l'avrei aperta e avrei confermato se le fascette se le hanno mandate in acciaio inossidabile, se le hanno mandate oppure se le hanno mandate in lamierino, quello ad esempio è importante. Se fossero in acciaio vanno bene, se invece sono di lamierino io l'avrei sostituite, avrei preso tutte le fascette, tre mi sembra che sono, sarei andato a farmi ma qui dammi tre facciate vuole acquisti, un acciaio inossidabile. Io ne avrei controbatte prima se sono un acciaio inossidabile. Se c'hai una calamita non ce l'hai la calamita. E se non ce l'hai, l'acciaio non la puoi usare. Nella calamita dei mobili. Prendi la facciata e la puoi alla calamita dei mobili che hai a casa. E vedi, se attacca vuol dire che non è acciaio inossidabile. Bisogna vedere se la sezione della fascetta va bene. Devi considerare quello. Non è che tutti quante le fascette sono diverse, perché ma non che sale il tubo è più sottile, no? E dunque essendo più sottile cambia anche la misura della fascetta. Fino a quanto vuoi, comunque, vabbè, comunque andranno bene. E poi un altro grande, piccolo buono, oppure autoresfingente, un altro autoresfingente, sì. Oppure un altro grande di quello buono, e va benissimo lo stesso, non c'è problema. Io ne metto un vulcanizzante sopra il naso, insieme al vulcanizzante tirato. Poi il vulcanizzante. Di un'astronante di cui da Dredesi, è logico che non va bene, ma se compri un'astronante quello bello largo da un centimetro e mezzo e man mano che lo stai avvolgendo lo tiri proprio tirato in modo che si stiri il naso, si allunga, capito, senza romperlo naturalmente, e fai un sacco di passate fino a tutti del naso autoresfingente, guarda. Va bene ugualmente, problemi non ce ne sono. Sì, sono buone. Ho fatto anche un parecchio, in modo che non devo guardare, ma quanto metto. Non ne metto a nuovo, quanto ce ne vuole ne metto. Mi piace tutto, già ho fatto già che le calentate sono largo, che sono spesso più schiette, c'è tutto qua. Eh beh, certo. Sì, quello sì. Andare, e domani se Italia è in antenna nuova, va a andare. Devo fare il piede di Luca, quello di sopra l'ho già fatto, e beh, se devi cambiare il cavo, lo devi far entrare dentro casa, è chiaro che lo fai dentro casa dopo, no? Ciao Giulio, il piede dentro casa lo fai quando il cavo è dentro la finestra, lascia solo quello di fuori, che poi non c'è neanche bisogno di fare quello di fuori, perché tra l'altro c'è stato l'attore a gas, io già l'hai visto, quindi si faceva una volta che era tutto montato. Il cavo vecchio, ok, e tirare quello nuovo, te l'ho già spiegato, non devi sganciare niente, non devi sganciare, il piede laggiù, dalla radio, tagliare, farlo uscire dalla finestra, e facciamo entrare quello nuovo, e sfidiamo il vecchio e entriamo nuovo, così si fa, Matteo Giulio. E lo facciamo anche sulla rovella, allora. praticamente quella si fa. Tanto più o meno sai la misura già del cavo. Al vecchio e mano a mano si tira così non stai lì a romperti le balle, lo agganci al vecchio, una volta che tu il cavo lo agganci al vecchio scendi giù e te lo tiri un po' per farlo entrare dentro quello nuovo, poi una volta che in casa c'è quello nuovo a noi ci lasci quello in più su, poi una volta che sto piattato te lo tiri tutto giù, quello che rimane senza metterlo in tira come hai detto tu, normale come era prima. Bravo, quando è finito il lavoro il cavo si taglia e si attacca al PL, Gianni? Quando è finito il lavoro, quando l'antenna è su, quando è attaccato tutto. Non tagliate niente, perché se il capo poi è corto, allora bisogna abbassare l'antenna, capito? Come ha detto Luca, si tira i cavi, Giulio è un esperto di questa cosa, io ho sempre fatto così, per tirare su il mio cavo, quando abbiamo montato l'impianto qua delle direttive, cosa abbiamo fatto? Abbiamo lasciato una sonda, io ce l'ho sempre, ho una sonda di RG58, lunga 50 metri, ho agganciato il cavo e l'ho tirato su, il nuovo, e l'ho tirato su fino ad arrivare all'antenna. L'ho sganciato dalla sonda, la sonda l'ho lasciata sempre su, capito? Non è il caso tuo, perché il tuo non è canalizzato, però per fare prima si aggancia e si porta dentro quello nuovo, così si fa, Giulio. Certo, è così, infatti, è chiaro che ti fa da guida, ti fa, no? È normalissimo, così. Solo che lui adesso cosa ha fatto? Si è attaccato il PL, si è attaccato a quello nuovo. Il discorso è anche quello, il PL della radio lo puoi fare anche su già, non è un problema, come sta dicendo qua, se ha la strada da gas, tanto meglio. Ma sai perché? Perché c'è il cappuccetto, nel corredo ti danno anche il cappuccetto, che devi infilare anche quello, Gianni. E dunque, il discorso, tu tiri sul cavo e poi c'è il cappuccetto lo devi mettere prima di mettere il PL, ecco qual è il discorso. Discorso, se ti va bene fare così, allora va bene, se te lo vuoi lasciare, lasciatelo e te lo utilizzi, infatti sarebbe anche un buon lavoro anche quello, perché no, così hai il doppio cavo, eventualmente per un'altra antenna, certo. Ti passa un altro RG58 nell'antenna, lasciando anche quello? Cosa? Nella finestra ti passa un altro RG58 lasciando anche quello? No, si fa un altro buco. Già, si fa un altro buco e si mette il cavo nuovo. E si mette il cavo nuovo. E quello lì te lo lasci per mettere un'altra antenna. Ce l'hai già pronto. Ci vuole 5 minuti. Si sale, si attacca l'antenna, si attacca il PL e si va vendendo. Oppure fai così. Togli il PL dall'interno, quello che è attaccato alla radio. Tiri fuori il cavo, prendo la punta più grossa e fai il buco in modo che ci possano passare tutti e due i cavi, senza bisogno di fare un altro cavo di buco. Per io non sai tu per che cosa stavo facendo. Appunto, lasciano Gianni che ti serve, ce lo sai, non c'è bisogno di dirti per quale motivo. Si tira tutto a su, si vulcanizza bene, una volta vulcanizzata bene, si porta su, Gianni tu ce l'ha fatta, noi la portiamo su, Claudio, la inseriamo nel palo, tanto Radia lì non è, ci fa lavorare anche meglio. E poi una volta che si fa il tutto, vabbè, bisogna anche organizzare i pali, così si fa tutto assieme. Prima si piazzano i pali, una volta piazzati i pali bene, la nostra misura, ci portiamo sull'antenna, ce la inseriamo, la mettiamo in PL, mettiamo vulcanizzante come vuoi tu Gianni, e poi una volta che è tutto a posto, si fanno le prove un attimo, scendi giù, così una volta che la tenda è tutta a posto, la solleviamo, mettiamo il tirante e si è a posto. Scendiamo, poi domani se ti dà, fai il caso che ci siano problemi, facciamo un caso che ti dà problemi, caso bisogna tornare a ributtarla giù, poi c'è una volta che si fa la prova in basso, tu rimani giù a casa tua, si fa la prova in basso, se vedi che l'antenna che è a posto, con caso la tiriamo su come l'altra volta, e poi una volta che è piazzata ce la scendiamo tutte e tre a cielo. Non c'è niente da regolare, Luca, non c'è niente da regolare, l'antenna è già parata là da casa. Non ce ne sono stazionari, tranquillo, perché non c'è niente, anche se ci fosse per dire 1 e 2, 1 e 3, tanto per dire, non è che puoi toccare l'antenna, no? L'antenna non la puoi toccare quella, capito? E vabbè, magari ci scappa qualcosa, è meglio che rimanga a baffo l'antenna, no? Claudio, tu cosa ne dici? Io modo di lavorare forse diverso dal vostro. L'antenna se ha 1 e 2, 1 e 3 di stazionari e quelle sono e quelle si deve tenere perché non ha nessuna regolazione. Io con l'antenna con Sandro l'abbiamo montata e con Sandro l'abbiamo smontata quando si è... E anche Sandro non aveva 1 e 1 e preciso. Mi pare che avesse 1 e 2 e mezzo o una cosa del genere. Quindi quelle sono e quelle ti devi tenere. Ok? Io lavoro in una certa maniera, Luca. Io gli ho detto che l'antenna... Due si devono, allora intanto si smonta l'impianto vecchio. L'impianto vecchio cosa vuol dire? Sfilare l'antenna, togliere quei radiali, perché se non si rompono metterla a terra, ok? Io mi occupo dell'assemblaggio del piantone, di tutto quello che c'è. Si montano prima i tubi nuovi, ok? Si montano prima il cavo vecchio, lascialo stare dove è, fai un altro foro e metti direttamente il cavo nuovo e te ne tieni due, e quello è già fatto. Si mettono prima i tubi nuovi, la bulloneria nuova che ce l'ho tutta nuova, delle staffe. Si fa la misura del telescopico, questa altezza va bene, perfetto. A quell'altezza io mi preparo già le cravatte, mi preparo tutto l'assemblaggio dei tiranti con gli occhi, perché attenzione che ci vuole un po' di tempo a fare quel lavoro. 16 anni fa con Gianni ci abbiamo messo una giornata intera, mezza giornata solo per sistemarci gli occhielli dei tiranti. Quindi, siccome sono preciso quanto è lui, io mi assemblo tutta quella parte lì, voi vi assemblate l'antenna, la nuova antenna, e vi tenete pronti. Quando io sono pronto, non si fa altro che inserire l'antenna nuova nel montaggio nuovo, tutto nuovo. si tira leggermente su e si prova. Dal momento in cui giù è tutto in ordine, perché ci può essere anche un PL, il PL in corto, ci può essere una cosettina che va bene, che non va bene, bisogna riabbassare tutto. Quindi si tiene una certa altezza e si fa la prova. Se giù è tutto a posto, quando io ho già cravattato tutto e attaccato già i tiranti, già tutto pronto, ci vuole 5 minuti, si tira su, si pesano i tiranti e ce ne stiamo scendendo. Lo facciamo così. Sì, intanto l'antenna è composta in questa maniera, cioè la bobina è il primo tubo, no? Il tubo più lungo, quello è tutto interno attaccato alla bobina, Allora lì il cavo è già infilato, si prende il secondo elemento, si prende e si infila il filo e si innesta 10 cm più o meno saranno, e ci mette anche la fascetta e poi anche la strada, eccetera eccetera. Poi prende l'altro elemento, infila il filo e innesti l'altro elemento e così via, fino alla parte di tutti quanti così. Perché è così che funziona, con l'antenna funziona così. Sono elementi da 1,90 a 1,92 mi sembra, per ogni cosa, no? E dunque sono 4, se ricordo bene, 4 mi sembra che sono. E dunque si infila così, perché il primo tubo è già attaccato fisso alla bobina, lì non c'è da fare niente. E il filo esce già fuori. Allora prendi il secondo elemento, infili il filo e colleghi quello. Perché c'è il tubo che ci sono le alette, è spaccato il tubo, no? In modo che quando stringi con la fascetta lo tiene stretta, come si fa, no? È così, elemento per elemento, si fa infilando e fissando, infilando e fissando. La tiri su ed è già finita, perché una volta che hai tirato su, il filo è la misura giusta, su in punta ci deve essere un morsetto e ci vuole una chiave sottile e esagonale, ci vuole, per fissare questo morsetto che tiene il filo elettrico, lo tiene con tutto il cavo, qualsiasi lo tiene tirato, lo tiene, se no se ne scenderebbe, no? Ecco com'è, dunque, una volta che è fissato lì, è fatta l'antenna, la metti su, la puoi attaccare anche al palo, la metti su, palo e tutto, tiri su, e si attacca le gaffe, poi che sono murate, no? È un dipolo verticale, sì, l'ho già vista, è una fesseria, il primo piantone c'è l'attacco del PL, poi innesti, praticamente sono dei tubi conici, degli tubi conici, metti il cavo dentro e chiudi, metti il cavo dentro l'altro tubo e chiudi, fino ad arrivare in punta poi lo tieni tesato e lo chiudi con la morsettiera, in modo che lui non scenda giù, basta, si vulcanizza bene, e poi si mettono i cavallotti, perché con l'antenna c'è i cavallotti, non c'ha l'innesto a tubo come la manca, ma c'ha i cavallotti, e una volta che l'impianto nuovo è pronto si innesta l'antenna, si attacca al PL e su che andiamo in America. Sì, anche perché è leggero, non c'è bisogno di dire, tanto il tubo cannocchiale che ha comprato nuovo è altro 2 mesi, no, sicché l'antenna la potete già attaccare direttamente nell'ultimo tubo, cioè nell'ultimo sottile, e poi non fare altro che allungare e fissare il primo tubo, allunga e fissi, la mettete in piedi, la mettete e la fissate direttamente alle gambe del muro, è leggera, non è che ci vuole cioè, troppa fatica per tirarla su, è abbastanza leggera. Sì, già l'ho già visto, vabbè, di là la Sandra è un casino perché è a tegole, manicomio, è attaccata in un punto molto balordo, lì già viene bene, va bene, ma c'è problema. Va bene, c'è giù il tracco, alle 5 sono in piedi, e domani è lo stesso, domani devo stare alle 5 e mezza, no, alle 6 mi alzo, alle 7 devo andare in cantiere e dovrebbe arrivare il camion di De Martis a scaricare tutto il materiale, a firmare le bolle, controllare tutto e poi me ne rientro a casa, porto il cane e poi scendo da te Gianni, dai, non c'è problema, avanti lui. Sì, ma in macchina, sì? No, la macchina c'è l'aria. Perché sta lavorando, sta facendo la mattina, entra alle 7, dalle 7 alle 3, io già scendo col motorino. Dai, moto scemità, non ho capito, no, vabbè, dai. Vabbè, dai, il planeta di voi che io mi assento, vado un po' in... rimango in ascolto, io ti ho visto lo stesso, vado in soggiorno. Ehi, ehi, vai già. Arrivare ieri, ho detto ti arrivava martedì, sono tre giorni lavorativi, c'era sabato e domenica di mezzo, quindi è perfetta, sono tre giorni lavorativi, più la consegna, magari te la potevano consegnare anche stamattina, magari in quella zona tua non c'erano consegne, stamattina non te ne hanno fatto. C'erano delle consegne da fare nel pomeriggio e te l'hanno portata nel pomeriggio, capito? Io invece quando consegnavo con l'SDA, anche se ne avevo una, me la portavo lo stesso appresso la consegna. E se dovevo saltare per dire da via Lumberto a via Roma, saltavo. Basta me la toglievo a mezzo ai piedi, invece i corrieri sono caso pari di impiegati, capito? Se non ci hanno 4-5 consegne in una zona, non va bene, per una consegna non ci vanno, ma avanti Giulio. Ok, sempre certo, purtroppo quando c'è la domenica di mezzo è un problema sempre. Io domani sono di controllo, dai. Domani di controllo un'ora un pochino brutta, all'una e mezzo devo andare, si può immaginare, speriamo che non ci sia troppa gente, però magari devo passare tutta la sera lì, ma pensate che tutto sia a posto, poi per il resto il tempo pazienza. Va bene così, avanti già. Di solito non c'è la consegna, evidentemente te lo sto dicendo, può darsi che sia anche arrivata lunedì, però non c'erano consegne in zona a Sassari e quindi non ne hanno mandato corriere, cosa manda un corriere per consegnare solo Antenna 2, hanno aspettato martedì e magari c'erano delle consegne lì in via Pascoli, via Poligono, via, e quindi ha fatto anche via Baldetta, capito già, funziona così, magari è arrivata anche lunedì. Era ferma in deposito, te l'ho consegnata martedì. Ehi, non si vede, io sono Massimo, l'importante è che funziona bene, sei soddisfatto già. Io te l'ho già spiegato, io quell'antenna l'ho vista la prima volta da Salvatore, ti ricordi? Salvatore ce l'ha ancora, non lo so. Poi quando è arrivato Sandro, perché lui era convinto che lì fosse andasse bene quella lì, l'ho vista lì, se no io non l'avevo mai visto, la verità, mai visto. I verticali ne ho visto tanti, anche a livello amatoriale, tipo quella, però quella non l'avevo mai vista. Non tutti dire, l'importante è che funziona bene, sei contento e via. Noi lì facciamo un bel lavoro, lo sai, te l'ho fatto 16 anni fa e ha durato all'eterno. Cambiando quel piantone, quell'impianto è ancora molto efficiente, però mi sta mettendo un attimo, ma si mette tutto a nuovo e via. Però ha durato tantissimo, io non ne ho problemi. Assolutamente, va bene. Quindi sei di visita domani, io ieri ho portato mia moglie ad Alghero perché la devono operare alla Luce Valle. Mi ho portato a fare le visite di controllo e adesso la prossima settimana la chiamano per l'operazione. La settimana scorsa lo stesso sono andato, ero in ospedale sempre per fare le visite. Adesso il 5 di febbraio c'è la visita qua a Sassari a Retteto, l'ha già arrivata la lettera. Lascia stamattina e è andata a dare a fare la sangue qua a Sasserco. Non basta più, no? Infatti questo a febbraio è il settimo mese, sette mesi ci hanno messo, sette mesi. Lui ha mandato tutta la documentazione, tutta la prima visita l'ha fatta a marzo mi pare. Allora, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre. No, forse l'ha fatta, eravamo quasi nel periodo giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, sì, mi pare che l'ha fatta a giugno o a luglio, sette mesi comunque, sì. Sì, già, perché mi hanno spiegato lì, perché poi avevo chiamato un po', non lamentando, comunque chiedendo come mai ancora non avessero chiamato. Mi hanno spiegato che danno la priorità a quelli che hanno, non ho mai capito, delle patologie oncologiche, per capirci, capito? E poi vengono gli altri. Un pochino in nuvolette, a voi, alle breccio. non girano, c'erano i cori, no, non arrivi qua. Segnale 5, quando sei sul tetto arrivi più di 9, 9 abbondante. Segnale 5, radio 5, forse Giulio non ti ascolta. Guarda che io sono salito sul tetto per dare un'occhiata, non ho toccato niente perché non me ne ha fatti nulla. Gianni, c'è il tetto completamente nero dagli storni. La cacca degli storni è nera, nera, nera, nera. C'è tutto il coso, l'alluminio del rivestimento dell'impermeabilizzazione che è completamente nera, fa schifo da vedere qua. Spero che piova più in fretta possibile così pulisce tutto, perché è veramente uno schifo. Sembra un porcile sopra il tetto qua. I vetri della mansarda lo stesso. Sono tutti sporchi, gli ho dato una pulita, il marmo qua è una cosa, lo storno è una cosa così schifosa che non viene bene a dirlo. Ho lavato la macchina ieri e di nuovo peggio di prima, peggio di prima. L'antenna poi non ne parliamo, la direttiva, è tutta sporca, tutta, è che è alta, se no l'avrei tutta pulita, ma come fai? Non mi posso poi lasciare in cammino. Avanti Giulio. No, non ti sento, oggi purtroppo non ti sento. Va bene, comunque tu già mi senti e dunque ti saluto. Sì, sì, vai, mi allontano un attimino, riprendi dopo grigio, io mi allontano un attimino, rientro subito. Massimiliano che stava salendo via Milano, tornando al lavoro, stiamo andando, non so, mi ricordo, non si vedeva l'antenna, era completamente tutta nera, tutta rivestita da questi cacchi di uccelli di merda. Avvicinandoti, tutta cagata da questi uccelli, i vetri, tutto, l'ho tutta lavata e ho detto da bugio di brico, vabbè, lasciamo perdere. Lupo grigio, ci sei, acci? No, ma vabbè, sceso, ho salito, l'ho vedato. Anche lui bisogna anche Vale da Fugiaro, si compri qualche boomerang, se la ordina, se la mette lì nella ringhiera della finestra, col capo un pochino lungo, modula da dentro e basta, come che sia una stazione base. Quelli della parte dove c'è l'antenna TV, capito? E agganciamo dove sono, allo stesso posto, tre sotto e tre sopra, non abbiamo problemi, ma buona essere sì, ben messi, ben girate le cravatte, ognuno dalla sua parte, e vedrà che il lavoro è fatto a regola d'arte, anche perché quell'antenna è molto più leggera rispetto alla mantova, quindi con sei tiranti, 3 più 3, 3 a mezzo piantone, 3 sotto il tubo che dove c'è agganciata l'antenna, tu sei a posto, non ce n'è problema, anche perché c'è tre staffe, quindi ha voglia. Lupo, Giulio, riprendi. Giulio non ci è andato nel QTH piccolino. Lupo dei lupi. Tu prendi la punta e lo fai entrare fino ad arrivare anche un metro in più, anche un metro in più, te ne lasci giù, capito? Nel frattempo si può attaccare il PL, ti puoi attaccare eccetera, a me basta, me lo lasci su fino a fare la misura dell'antenna, poi lui lo vediamo domani, non è un problema, ragazzi, io porto anche il saldatore a gas, comunque nel caso dobbiamo fare l'altro sopra, capito? Così il PL me lo lasci su, quello che è già saldato io ti do l'altra parte che non è saldata, sì, facciamo così già, comunque lo porto il saldatore, non si sa mai. E ma sopra non dobbiamo saldare niente? Lo metto a parte quello lì, non si sa mai che ci serva qualche tipo di saldatura. Va bene, va bene. Lupo dei lupi. Io ti sento basso, basso, basso. Santiago 3 arriva qua, ma tu ce l'hai, sta passeggiando, figurati dove sono io, no, io ti sento perché sono molto in alto, quindi sicuramente ti vede la mia antenna, sei in viale Trieste che stai passeggiando. Sì, ho capito, e vabbè già, tu c'è anche meno ricezione in questo momento. Quell'antenna lì, no, ma qua arriva, si è arrivato a 5, 3, 5 con quei semi perché si è in movimento, comunque ti sento lo stesso, non problem. Vedi un po' se riesci a parlare con Gianni che intanto mi preparo io, che devo portare il cane fra 10 minuti, riprendi già. troppo grigio. Ehi Giorgio, so. Adesso che sono Giorgio. Anche Santiago Nova, forse anche di più. cui un segnale ultimo di lì. Bene. Ma poc'anzi c'è stato qualcuno che mi ha salutato. Aspetta, Franco, ma eri tu che mi hai salutato? No, forse sei andato. O era Marino. Marino, eri tu che mi hai salutato? Non uno e nell'altro, vabbè, pazienza, dai, forse hanno solo salutato e poi si sono allontanati. Avanti Gianni. Chiaro, tu pensa che mi stai arrivando praticamente quasi col tuo segnale che stai arrivando adesso, tanto per dire una, no? Tu mi stai arrivando a Santiago 7 e mezzo, mi stai arrivando, lui sta arrivando a Santiago 7, c'è un'antenna verso il metà mare, è chiaro che ci sono problemi, ma domani gli assistemi tutto, per cui va bene così. Avanti il pomeriggio. Non è messa male con l'antenna, no? Non sta, praticamente non c'è PL attaccato, sta uscendo solo con il cavo, perché se c'è il centrale attaccato, cos'è già troppo che sta uscendo. Io vado a portare il cane, ci sentiamo. Se vedi con l'antenna, Giulio, è uno spettacolo, è lucida, lucida, nuova, con tutti i suoi radiali originali. Ma infatti già la recupero adesso, la spacco, a costo di farle la resina nuova, la devo saldare. Thank you. racconto uno io invece a riguardo di un piccione. Un giorno mi trovavo in piena estate, eravamo, eravamo in piena estate, io mi trovavo in Piazza Italia, sulla porta del Banco di Napoli, no? Che stavo chiacchierando con un amico vecchiera, che tra l'altro era un vigile notturno, che lui lavorava lì in banca, no? E stavo chiacchierando con lui, a un certo momento arriva questa signora, una donna bella di sinta proprio, era tutta quanta, sai, scollacciata. Lì su, sai benissimo Gianni, che sul cornicione del Banco di Napoli ci sono sempre i piccioni, no? Ci sono. Il caso ha voluto che proprio quando questa donna stava per entrare in banca, questa cagatina del piccione, caspita, solo per vedere questa donna qualche faccia che ha fatto, e l'ha presa proprio tra la spalla e il seno, l'ha presa, perché è tutta scollacciata già, e dunque proprio sulla pelle gli è caduto una cosa schifosa, una macchia come un pugno praticamente, e la macchia era grande, se puoi immaginare. Per carità, ragazzi. Allora, dopo video, vediamo dove ti sei spostato. Sì, confermo, più basso ti sento anch'io, ti sei abbassato anche di molto. No, ma l'unica posizione secondo me è all'incirca dove c'è l'edicola più o meno di Viale Trieste. Quella secondo me è la posizione ideale. Ok. Capito Gianni, ti puoi immaginare questa... Intanto si è rimasta malissimo questa donna, no? Però ha fatto uno schifo veramente. Ma per dire come succedono le cose, no? Questa donna adesso bastava un passo prima, un passo dopo, non l'avrebbe presa, invece l'ha presa proprio in pieno, l'ha presa già quella donna. Certi uccellacci proprio di quelli che fanno certe massate proprio senza restarmi. Ti sei spostato, sì. Ti confermo, sono ritornato nella posizione in cui ero prima, come mi dicevi da adesso, Gianni? Va benissimo così, va benissimo. Va bene, allora ho trovato il punto ideale per poter parlare, Gianni. Ok. Sì, che nella panchina così almeno ti riposi anche. Sì, è tornando al discorso ombrello, già. C'è una donna qui, non la dove abito io, non la zona dove abito io, che tutti i tantissimi giorni porta il cane, ne porta due intanto, due cani al guinzaglio portano, e lei esce sempre con l'ombrello, sempre, sia d'inverno che d'estate, perché probabilmente non può prendere il sole questa donna, suppongo che sia quello il motivo, e allora lei esce sempre con l'ombrello, sempre, in estate, in inverno, sempre. Purtroppo sembra una beffa, invece per lei è importante evidentemente, perché se usa l'ombrello in piena estate evidentemente perché non può prendere il sole, avrà qualche problema di salute. Si porta i suoi cagnolini in giro, poi gli fa la passeggiata, però non le manca mai l'ombrello. Lei è sempre occupata, tutte e due mani occupate, da una parte è il guinzaglio dove ci sono due cani e l'altra parte l'ombrello, sempre, sempre, sempre così. Avanti, il pomeriggio. Confermo anch'io, pur essendo di una città del sud, certo, purtroppo quella è la carnagione bianca, bianchissima, anche a me succede così, se io mi metto sotto l'ombrellone mi blocco ugualmente, ma è talmente il soleone che picchia e dunque purtroppo è così, è così è già. Di meno, perché anche stando seduto sotto l'ombrellone a un certo momento quando rientri a casa sei stanchissimo perché il caldo purtroppo fa quell'effetto. Avanti lupo. Sì, è vero, uno rientra a casa stando molto senza avere fatto niente. Io invece conosco persone che dopo un'intera giornata al mare rientrano a casa e fanno una doccia a ballare tutta la notte, come fa il nostro lupo? Evidentemente è un altro fisico, un altro tipo di fisico, e chi lo sa? Vabbè, da tante cose può dipendere, intanto bisogna vedere l'età della persona, se uno è giovane potrebbe anche resistere, se fa una doccia e poi va in giro e a divertirsi, a ballare, eccetera, tutto quello che vuoi, ma se hai comincia a avere una certa età di queste voglie non credo che ce ne possano essere tante. Avanti Gianni. Quando si è giovani c'è un altro vigore fisico e ovvio, un'altra resistenza. Purtroppo così. E vabbè, comunque tu non è che sei proprio così anziano. E cosa posso dire io allora? Già, che te ne vinco 17 anni, una cosa del genere. Più o meno, dai. Suppongo che sia così. Avanti il gruppo di io. Appunto, allora te ne vinco 17 anni. Sarebbe con 17 anni e fra un po' sarebbe con anche 18 fra 3 mesi dai. No, in aprile dai, alla fine di aprile ne compierò 78. Avanti lupo grigio. Sì, anch'io ho 60 anni del 59 come l'amico che ha parlato prima, solo che io mi sono rifiutato di festeggiare. grave, perché una cosa è avere 59 anni, già quando sono in diretta 60 uno cerca di dimenticare, non so se è successo anche a te, Gianca. oppure Roma, Milano, ma dico viene Roma, poi Roma, San Piero non partono più dopo, ma Ryanair non c'è, San Piero. E allora conviene con la nave, andare a Cagliari, da Cagliari va direttamente in Sicilia. Da Cagliari mettono il volo Cagliari-Palermo, però bisogna arrivare a Cagliari, insomma. Poi io non è che ci vado ogni anno, l'ultima volta sono andato 5 anni fa, quindi anche se spendo qualcosina in più, pazienza, mi do la macchina, vado, poi non ci andrò più tanto. Ok, beh certo. Già si trovano, sì, le apparecchiature già si trovano, altro che. Ma in Sicilia ce ne sono ancora tanti, gente che parla a baracchino, eccetera, eccetera. Ma c'è gente anche che parla molto sul Cibitoco in Sicilia. Tu in tutti i momenti c'è gente che parla dalla Sicilia col Cibitoco. Tu con l'app vita l'hai scaricata nel telefonino o con i cor. Guarda, che ti dico la verità, no, per un motivo solo, perché mi sembra una cosa adeguata. Cioè, la radio deve essere radio, il CD deve essere CD. Altrimenti se mi carico CD tolto, non è CD, sarà un'altra cosa, ma non è un CD, a me piace parlare, sentire la voce delle persone, infatti io non uso neanche WhatsApp, anche se ce l'ho, non mando messaggi, chiaro, voglio sentire la voce. Sì, beh certo, non si può paragonare, la radio è radio, è un altro discorso, un'altra soddisfazione, certo. No, perché devo dire che ci sono molti tuoi compaesani ci sono sul Cibitoco, molti, ma sempre. Anzi forse il maggior numero di persone è proprio dalla Sicilia che ci parla con tutto il resto dell'Italia comunque. Che poi si può parlare anche con il resto del mondo, ma è un altro discorso quello. Per cui, non è. L'unico problema che ci trovo io è che si scarica sottoposta la batteria del telefonino. Io non ce l'ho sul telefonino, io l'ho messo su un tablet, che il tablet ha la batteria più grossa come amperaggio e dura molto ma molto di più. Infatti quando qualche volta ci vado lì a parlare ci parlo dal tablet direttamente. Intanto perché mi sentono meglio e allo stesso tempo ascolto meglio anche. Però c'è anche la versione canali tipo CB. Che poi quello però è limitato ai 30 km e basta, a meno che uno si compra col microfono, il dual mic, allora si può arrivare anche ai 100 km in linea d'aria, ma non ne vale la pena secondo me, anche perché questo sta qui sul di quel microfono, sembra che costa intorno ai 118-120 euro, si può immaginare, cioè è assurdo che un microfono debba costare così, allora un microfono che fa anche da viva voce, oltre a un poterlo utilizzare col baratino lo puoi utilizzare anche come viva voce in macchina. È praticamente come un Bluetooth là. Avanti Nico. Sì, lo so, tutto quello che vuoi, però la radio era, non c'è niente da fare, io anch'io so maneggiare il computer, le carte, ma non è la stessa cosa della radio. Sono voluto rientrare dopo 40 anni nella radio per sentire la radio, altrimenti sarei rimasto su internet nelle varie dei vari programmi. Sì, ma certo. Comunque se devi comprarti un CB quando vai fuori o quando decidi di comprarlo, io ti consiglierei di comprare ad esempio un Superstar, che sono dei barchini che vanno molto ma molto bene, molto. E devo dire che non è che siano così tanto costose rispetto a tanti altri, magari. E le danno anche molta soddisfazione. Sono delle radioline naturalmente da vettura se vogliamo, però si possono usare come tutti del resto a casa, la stazione base, e sono radioline che danno delle soddisfazioni, tanto perché hanno una modulazione bella, chiara e anche potente, se poi li abbini anche un microfono preamplificato, a attaccato ad un'antenna, magari anche performante, ancora meglio, si sentono dappertutto, anche all'estero. Naturalmente all'estero si sentono quando c'è la propagazione, nei giorni di propagazione, quando c'è bel tempo, eccetera. In estate questo solamente, estate e primavera, non certo in inverno difficilmente si sentono. E per cui, vabbè, poi ci sono tanti altri tipi di baracchini, però ci incominciamo a salire col coperchio, mentre invece lo superstare è intorno ai 170, 180, 200 massimo più o meno, eh. Sono delle radioline molto apprezzabili, ecco, io la penso così. Avanti, riprendi ancora amico e fai girare poi per Gianni. Sì, certo, io adesso se devo comprare chiedo consigli a voi, che siete molto esperti, anch'io ripeto, dopo 40 anni sto ricominciando da capo. Io adesso però vi devo salutare, perché devo rientrare a casa, mi ha chiamato mia moglie e mi ha detto niente perché non so perché. Ok, ciao, ciao Nico. Grazie anche a te allora per la chiacchierata. Ci sentiamo domani se coincide. Ciao, ciao. Se passo Gianni per i saluti. Ciao. Avanti già. Ok, sì. E così è. D'altronde il superstar è un baracchino abbastanza apprezzabile, già. Non è il massimo, ma è, diciamo che è un baracchino che va molto ma molto bene. Io uno ce l'ho e so che funziona molto bene, per cui senza bisogno di spendere un patrimonio veramente. Tu cosa pensi? Poi naturalmente parliamo di altri baracchini, ce ne sono ancora più performanti, ma soprattutto lui che deve iniziare, chi glielo fa fare, spendere tutti i soldi quando può avere un malattino normale che lo sento dappertutto, anche di preparazione. Fino all'età di 24 anni, non è che... E poi quindi ho preso la macchina e ho sempre avuto la macchina per oltre 54 anni già, perché io adesso a febbraio faccio 54 anni che l'ho fatta adesso a febbraio, per cui ho fatto ho preso la patente e ho subito preso la macchina, subito, immediatamente, nel giro di una settimana. E da allora ho sempre avuto la macchina, più di una, naturalmente. Avevo incominciato col 1100D della Fiat, che aveva le macchie allo sterzo, era una gran bella macchina, consumava un sacco di benzina, però se ne fregava, io tanto ero giovane e non avevo famiglia, per cui potevo anche mantenerla, non c'erano problemi già. Anch'io ne ho avuto tanti, ho avuto il 1100, il 124, il 128, l'850, la Opel Kadett, l'Opel Vectra, la Panda, l'Alfa Sud, e altro che non mi ricordo più, ne ho avuto tanti, vabbè, è chiaro che si tratta sempre di cambiare, eppure potevo tenermene una per dire consumarla proprio, ma non ci riesci a consumarla, perché prima o poi ti viene la bravosia di comprare un'altra, a cambiare, perché si sa che sono di averla un tipo di macchina, poi cambi. Adesso la C3, questa sono già 10 anni, 10 anni e mezzo, e appena 41.000 km, ti puoi immaginare già, 4.000 km l'anno praticamente, sto facendo con questa, non la sto usando, poco e niente. Sì, quello sì, pensate che una volta erano loro che pagavano il proprietario della macchina per la bella, invece adesso devi pagare per lo samana, e poi si vendono anche i pizzi come pizzi di carne, e ne ricavano un sacco di soldi, perché lo so, perché tu vai a comprare un pezzo al fasciacarrozze e ti chiede un mucchio di soldi, ti chiede, soprattutto se devi comprare, che so io, un vetro o qualche faro, queste cose così, o qualche sportello, ti fanno pagare un sacco di soldi, ti fanno pagare. Però la gente purtroppo per risparmiare la compra il pezzo per gli stessi, sempre che riesca a trovarlo, perché non è sempre che tu se non sei costretto a comprarlo nuovo per forza, ma se hai una macchina vecchia a fare una riparazione che costa più della macchina, che di quanto vale la macchina, allora tanto vale buttarla via, non fa male a comprarsi un'altra. Se uno non ha i soldi si mette una rata e basta, e ciccia. Tanto perché le farmi, eppure la soluzione migliore, quindi almeno non hai più quel pensiero e sei tranquillo, certo, ma è così, e se è così. Cosa ci vuoi fare? Però non tutti ci arrivano a comprare in contanti già, e allora è chiaro che la gente si lancia e magari si fa fare una rata personalizzata abbastanza bassa, e dunque va lo stesso, se la compra lo stesso. Infatti c'è gente che proprio dice no, io i soldi me li tengo. Anzi, se tu ti prenoti, quando tu vai alla concessionaria, sono loro che ti dicono no, se li tengo i soldi, se la compri a rate, sono loro addirittura che ti dicono così. Loro preferiscono così, non so per quale motivo, però preferiscono così. Sul tavolo che avevamo appena finito di mangiare, che mamma mi stava per ritirare, no, per la guardia, perché ho appena finito di mangiare. E ci siamo messi a sollevare il capo perché era più forte. E uno non ha fatto l'altro, come abbiamo sollevato, si sono messi le piatti, tutti per terra, sapete. Ma non è finita lì già. E avevamo noi quei funghetti di terracotta di una volta, non so se ne ricordo, che ancora oggi esistono. E mettevamo lì una lira, due lire, tutto l'anno, conservando soldi per comprare il regalo, perché eravamo sotto le feste di Natale, dunque c'erano i soldi per comprare il regalo per il Natale, no? E me l'ha fatto un po'. Ha baciato dei piatti, ha preso, ha paccato il funghetto, ha preso il soldi, è andato, ecco, fate piatti, ecco, questo è il regalo di Natale. Facevo un altro pezzo e così via. E alla fine mi sono ritrovato con la casa per dire, no? Che è sicuramente più importante della macchina. Ma non solo per il fame, ma anche per la salute, perché uno se comincia ad andare a bere, a fumare e fare il cretino, a un certo momento è chiaro che è poi magari ti lamenti. Non è che pensi che certe cose te le hai anche cercate. Purtroppo non sono tutti della stessa idea, e allora magari sì, sono quelli che non sono di risparmiare, ma non vanno nemmeno a lavorare, è tutto quello che sta magari i genitori, eccetera. Perché non fanno altro che chiedere soldi ai genitori e loro magari non nemmeno vogliono di abbassarsi la schiena per fare un lavoro, nulla. Purtroppo è così. No, io ho sempre risparmiato, io ho fatto la bottega così, ho fatto. Si può immaginare, ma che poi ho fatto la casa, ho fatto un'altra casa ancora, così via, già, perché vedi bene, e poi ho messo da parte un po' di soldi, per cui, però devo dire che ho lavorato e ho sacrificato molto, molto, molto, come tutti gli altri. Io non è che guardavo le 8 ore solamente, no? Io minimo, tutti i giorni ne facevo 10, 12 di ore. Per cui no, uscivo la mattina, adesso di questo periodo uscivo al buio, rientravo al buio stesso a casa. Già, era così. Io ho lavorato molto, molto, molto, molto. E vabbè, certo, senza sacrificio non si ottiene niente. Se uno si sacrifica, qualcosa riesce a realizzare. Purtroppo sì, è d'altronde. Ma tu vabbè, se il dipendente lì è anche costretto, ma io che potevo anche fare l'orario che volevo io, senza fare tutte queste ore in più. Infatti tante volte ho pensato, ma se io dovessi mettere insieme tutte le ore che ho fatto in più, considerando che un lavoratore per regola dovrebbe fare 7-8 ore al giorno di lavoro, ma se io metto tutte le ore insieme, tutte quelle che ho fatto in più alle 8 ore, non ho solamente 77 anni, minimo ne ho 120 anni. Purtroppo è così, poi gli sistemi di tassazione sono esageratissimi, no? Non è possibile. Oh, anche prima, guarda che io pagavo tutti gli anni, come gli annunciari reddi, intorno ai 5 milioni, quando c'era la lira 6 milioni, e anche con l'euro 6-7 mila euro solo di annunciari reddi, poi tutto il resto. Coso, è Camera di Commercio, è consulente, cose che non c'era, IVA, perché tanto l'IVA la gente non te la pagava, allora me la dovevo collare io se volevo lavorare, perché tu lo sai benissimo, alla gente se tu gli mettevi l'IVA al lavoro, non era possibile. Il primo era un finanziere che una volta è venuto da me, quando gli ho fatto un prezzo gli avevo detto era un lavoro da 1 milione, 200.000 lire, compreso IVA, c'erano 200.000 lire di IVA, e gli ho detto 1.200.000 lire ci vogliono per questa cosa, c'era la lira, no? Oh, troppo caro, ma guardi, solo di IVA ci sono 200.000 lire, dunque, non sono i miei quindi, quelli io li devo versare allo Stato. No, ma non si preoccupi, l'IVA non la pago io, no? Se non la paga io non so cosa dire, io gliela devo far pagare, per cui no, io non la pago, non si preoccupi. Beh, nel fatto sano ci siamo messi d'accordo, vabbè, se lei non la paga, pazienza, allora vado via, non siamo d'accordo, arrivederci, buonasera, e me ne sono andato. Beh, non sono passati nemmeno 10 giorni che questo cretino di uomo è venuto vestito da finanziere, lui e un suo collega, e mi ha controllato tutti i registri, mi ha controllato. Ma ci è rimasto male, perché ha provato tutto in ordine. E cos'era? Questo qui era un finanziere, per dirti no. Il primo era lui che non voleva pagare l'IVA, però andava in giro a rompere le scatole alla gente per vedere se l'IVA la pagava. Ma te immagini che andata di disgraziato di uomo. No, tanto un po' di tutto da questo mandato io che ho fatto un'altra 12.000 euro e poi quando abbiamo chiesto la fattura mi ha detto che non era l'unico coglione di turno a fare le fattute, volevo la registrazione di tutta la finale. Appunto, te lo sto dicendo, non è bastata una volta. Sono passati altri 15 giorni dal primo controllo e è venuto con un altro collega ancora, diverso collega. Questo qui era ad essere qualche graduato anche della finanza. E lui ma si è rimasto male perché non poteva, io avevo un consulente talmente esperto e preciso, e poi io gli portavo tutto, e poi tutti i lavori che facevo io facevo sempre, la bolletta d'accompagnamento e la ricevuta fiscale, oppure la fattura, se mi richiedevano la fattura, io facevo così, perché non si sapeva mai, nel trasporto si potevano fermare, si trovavano senza, poi specialmente in quel periodo, allora, quando ancora era in voga il primo periodo, soprattutto delle ricevute fiscali, eccetera, e quando si vedevano con un carico, si fermavano ed erano dolori se per caso non avevi la ricevuta fiscale, oppure la fattura, capito? tu pensa che addirittura avevo un registro anche per la Mondezza, per buttare via la Mondezza c'era un registro e tutte le volte dovevi anche aggiornare il registro della Mondezza per dirti no, figurati, no, non mi hanno mai fregato a me, no. Non era possibile che mi potessero fregare perché facevo le cose in regola. C'era il dazio, tu facevi un mobile e per fare per portare quel mobile dovevi pagare, dovevi, in base al peso del mobile, c'era un ufficio del dazio, una volta era Santa Maria, dove c'è adesso il coso di Sigiumi, sì, era lì. Poi l'avevano spostato lì di fianco quella traversa da via Lombardo che va verso via Roma, di fianco al museo praticamente, in quella zona c'era. E prima di consegnare il mobile andavo, facevo la bolletta del dazio, grosso modo a Ducchio mettevo il peso, perché in giro c'erano le guardie del dazio, c'erano che ti venivano, ti fermavano e ti chiedevano fammi vedere la bolletta del dazio. E guardavano più o meno quanto pesa questo armadio, per dire, non so, sono tettivi, e loro bene o male avevano più o meno, sapevano quanto poteva pesare un armadio, dunque ci dicevano sì, va bene così, ma mi sembra un po' leggero, no, a me mi sembra un po' pesante invece la cifra che penso che ho messo, per dire no, però loro ci provavano, e poi quelli erano sempre brutti. Quelli erano sempre brutti, se li trovavi per strada. Ma sai perché erano brutti? Perché magari c'era qualcuno che riusciva a corrompere, ragazzi, se gli usciva bene, e allora sempre brutti erano, la carità. Mentre invece per i terramenti non si pagava niente, porte, finestre, queste cose non si pagavano. Ma se facevi un mobile dovevi pagare il dazio. Sì, me lo ricordo, ci questa parola là. Bisognava farlo, perché se no, se volevi stare tranquillo, dovevi farlo, per cui no. No, perché se ti beccavano una volta, poi ti avrebbero perseguitato sempre, capito? E non ti avrebbero lasciato mai in pace, per cui no, non gli hai dato modo di nessuno coso, di nessuno errore, e allora erano tranquilli. Sto dicendo, ma da me sono venuti in tanti anni, due volte sono venuti, ma era quello perché non gli avevo fatto, o non gli avevo salato 200 euro dell'IVA per l'armadio, era un armadio a muro grande, e gli avevo chiesto 1.200.000 lire, e c'erano 200.000 lire di IVA, siccome non gli avevo voluto scavare, cavolo lui è venuto a controllarmi. Se gli scalavo l'IVA probabilmente poi sarebbe venuto di nuovo, avrebbe voluto l'automobile sempre allo stesso modo e sempre a togliere l'IVA. Quindi avrei fatto le cose, ma fatte più di una volta, capito? Invece a me non mi fregava nessuno, a me non me ne frega niente. Se tu puoi essere anche non ho niente da temere, e così facendo. Ecco. Come mai ancora qua a voi? Aspetta, sono visto qua, ho acceso e ho detto, beh, pensavo che non c'era nessuno, invece c'è, ci siete voi. Ciao Giulio, ciao Gianni, buonasera, avanti Gianni. Sì, stavamo per chiudere qua, perché anche io ho detto che la mia moglie sta cenando, ma diciamo che ci siamo stati chiacchierate, ciao da tutti. Ciao, chiacchierone sei tu. Anche Spidi Gonzale, vero qua. Ehi, ciao. Io mi sono rientrato adesso, salito qua a prendere della roba, gli ho detto, a vedere se c'è qualcuno, ma non penso. E invece c'è la latte. Ehi, va bene. E beh, Gianni, niente ancora antenna? Sì, mi è arrivata un po'. Domani la faccia. Ah, ecco. Buono. Almeno ti riascolto meglio, forse te dovrei ascoltare anche meglio. Tira lassù. Adesso quando mi ascolti mi sento Santiago 4. Allora che bella, ma Santiago 4. Tu sei un segnale di 3 modulati a. Non modulati a 4. E la radio è buona. Sì, assoluto, come ti sento io mi sento anch'io da 3 a 4. Butta via tutto, cosa stai lì a aggiustare? Intanto aggiustarla ci vuole pazienza, ma molta a fare un'antenna del genere. No, non ti credo, non c'è cosa fatta a fare, bisogna trampanare dove c'è che lui l'abbia già fatta qualcuno o vista facendo e ci riesce, però tentare non nuoce, però dovrebbe essere una fatica inutile secondo me fare così. Vabbè, tanto Beppi è andato a Bisì, va in pensione, avanti Giulio. Ok, fra. Un po' di pazienza ci vuole. Sì, dove ci sono i battini, già, io avevo entrato la punta del trapano, poi siccome erano, come si chiamano, quei battini che si mettono con la pistola, adesso non mi ricordo come si chiamano. Vabbè, poi ci ho messo invece, siccome sono corrispondenti, ce ne sono due di battini, non l'ho fatto all'altra, però sono corrispondenti, no? Ho ribucati tutti e due, ci ho messo una trafila filettata col soldadino da una parte e dall'altra, di quelle trafile sottile da 3 mm saranno, 4 mm. E dunque l'ho rimontata così io la carrozza già. È facile da fare, non è che sia, se vuole solamente un pochino di applicazione, mettersi a farla e basta, ma è una cosa fattibilissima, non è un problema. Avanti Gianni, c'è la carrozza nera, c'è anche in quell'antenna che hai detto tu Gianni. Ripeto si chiama. Che cosa è che non ho capito? Se c'è nella base quella c'è una carrozza, c'è nera, che copre la bobina. No, c'è sempre le cose di legno, la legno è circolare. Anche questo qui è una carrozza di resina, non lo so, la carrozza di resina, ma io non ho voluto mettere più il ribattino, quello da fare lì, perché quando spingi sai che poteva anche rompere, invece ho preso un coso, tu immaginati un bulloncino lungo, da parte in parte, col dado da una parte e dall'altra, ma è non si sia fatta così, e va benissimo, anche meglio dei patini, di quegli affari che c'erano prima. Ma dopo l'hai trovata, dopo che l'hai fatta? Oh, perché non la stavo sempre usando, capita? È certo che l'ho usata, ci mancherebbe, te lo sto dicendo, perché passa da una parte a parte, i tuoi buchi sono corrispondenti, e se tu guardi una volta che entri in trappolo, che ne togli quella specie di ribattino che c'è, lo togli anche dall'altra parte, guardi, lo guardi dritto e vedi da un buco all'altro, capito? Ecco, vabbè, togliere il ribattino dalla cavalata, non ci vuole il trappolo. Prendi una lima, oppure una lima buona, oppure la moletta appena appena, gliela passi sopra, e me la lisci, e poi un pocione, un coso, che glielo tiri giù. Sì, beh certo, quello sì, indubbiamente va bene lo stesso, ma col trappolo se ho messo la punta io da 3-4 mm, se ho messo quella e basta, una volta che entra la punta, quando se lo mangia, quella fare è stato in alluminio, quella fare di me, e se lo mangia subito, se lo mangia un attimo. Per cui adesso ti mando un fratto, hai l'antenna, e sai, per quale motivo non è cortocircuitata, perché dopo un po' di tempo non è più cortocircuitata. Adesso ti mando la fotografia, da cosa dipende, e così te ne rendi conto. Ce l'ho qua nel telefonino, ok? Riprendi fra. Solo che il mattino, se noi notiamo il chiodo che c'è dentro, non è in alluminio, quello lì dà fastidio quando trappani, capito? È un casino. E potresti anche la punta girarla oppure spezzarla, quello lì, perché quello non dovrebbe essere neanche acciaio, però è duro, molto duro quello lì. Avanti Gianni. Ma io la faccio come sempre, quando è nuova, per molto di qua, non è che può fare, né nulla, va bene, dopo ci sono quelli che si applicano, che si piace farlo, allora, tra l'altro un paio di maniche, anche se quando è nuova, per molto di qua. Sì, in effetti è così Gianni, infatti io un anno ci avevo buttato via un'antenna che era buona a recuperare, era buona, buonissima, era nuova, la vedevi, era bella, lucida anche. Ho preso un'antenna nuova, proprio che ce l'ho buttata via, l'ha trovato tutta a pezzi, l'ha giovata, non me ne posso. Sì. Sì, Giulio, questo l'avevo già visto, tu stai dicendo quel taglio che c'è all'insù? Sì, quel taglio lì, vedi dentro, questo è quel filo della bobina, entra lì, è lì che perde il contatto, lo perde, poi siccome entra la carota, no, entra giusta giusta, io adesso cosa ho fatto, quel pezzo di filo che entra nel taglio, l'ho stagnato, e poi lo di nuovo fatto delle battiture come era, e dunque, e poi ci ho messo un giro di nastro isolante e sono riuscito lo stesso a infilare la carota, così almeno se si dovesse spostare il nastro isolante te lo tiene sempre dietro l'incasso e dovrebbe durare molto di più, perché se quello non fa contatto bene, ed ecco che non è più cortocircuitata, il problema è quello. Sì, ma questo me l'avevi già mandato, ce l'avevo già questo, ce l'avevo. Addirittura me ne hai mandato anche altri. Sì, è detto, ho mandato tutta la base, tutta la cosa, se vuoi te le rimando, non è un problema, ce li ho tutte, ce li ho. Sopra, anche la molla se posso mandare, aspetta che ti mando tutto. No, Giulio, ce li ho. Allora va bene, per dire no, perché l'antenna è nuova, l'antenna mia è nuova, non io l'ho tolta solo perché fischiava il vento, o fischiava il radiale col vento, solo per questo, se no l'antenna è ultima veramente. Poi adesso è di nuovo ristrutturata, di conseguenza è di nuovo così circuitata alla grande e dovrei... dove c'è quel buco, poi dove c'è quel buco la bobina lì entra il bulloncino, entra che fa il contatto poi con la molla e tutto lo stilo centrale, no? Sì. No, io ancora non l'ho fatta, non l'ho tirata giù neanche queste tappe. Ero un po' impegnato e non l'ho fatto. Però quando capita qualche giorno bello la tiro giù e me la faccio, a costo di rimanere un paio di giorni senza antenna, se no, 2 o 3 giorni, e la tiro giù e me la faccio. Sì, perché è sempre meglio, perché è nata così cortocircuitata, per quale motivo non deve essere cortocircuitata? Per adesso che l'antenna funziona sempre, però quella è stata corrente elettrostatica, no? In modo che non si può mai dire, cioè, alle volte può servire quel cortocircuito. Quando l'antenna è cortocircuitata, diciamo che dovrebbe essere più sicura agli effetti della corrente elettrostatica, tutto lì, solo per quel motivo lì. Infatti. Ora lo sai che il mese scorso ero qua e stavo piazzando un commutatore, e prima di piazzarlo l'ho controllata ed era cortocircuitata. Poi di un paio di giorni l'ho ricontrollata, di nuovo niente. Sì, perché magari può capitare come il vento lo muove, no? E che possa metterlo di nuovo in contatto. Però poi alla fin fine, un po' perché si usi da quel contatto lì, e un po' perché come si muove lo perde il contatto. E allora ecco che non è più corso circuitata, tutto lì, solo per quel motivo. Vabbè, là, io scendo a mangiare, sono le 8:30, tra un po' dopo mi guardo la partita dell'Inter, che c'è Inter Cagliari alla televisione, sul primo canale. Vabbè, là, grazie per la chiacchieratina, ci sentiamo domani se coincide. Ciao Fra, ti lascio con Gianni, ascolto fino a lì e poi chiudo. Ciao Gianni, grazie anche a te della chiacchierata, a domani, ciao, riprendi. Sì, allora, ciao Lino, ciao Fra, ciao a tutti e due, allora vai, buona cena, buon tutto, ce la ascoltiamo alle prossimine.